9 in punto, la versione di Oscar. Of everything that stands the end, no safety or surprise the end. Buon 2 dicembre, auguri a tutte le Bibiane, oggi è Santa Bibiana e prima della consueta, oggi più breve del solito, rassegna sulla stampa europea in vista dell'avvicinamento del 9 di dicembre, l'Eurovertice che dovrà pronunciare una parola definitiva e in tutti quanti dobbiamo stare all'altezza rispetto alla crisi dei mercati e prima di entrare nel merito della trasmissione di oggi, che sarà sulle sofferenze bancarie, per sentire come una grandissima banca, Unicredit, affronta il problema ponendosi la questione della permanenza in vita, per così dire, delle famiglie, delle imprese, cioè dei debitori della banca, mentre le sofferenze peggiorano. Due sole parole su quello che mi è avvenuto ieri. Ieri mi è stato impedito l'accesso all'Università Statale di Milano, dovevo andare a un dibattito sull'euro. Ho trovato all'ingresso in via del Conservatorio a Milano cordoni di giovani studenti che mi aspettavano, mi hanno apostrofato dandomi del fascista, del padrone, del buffone, del figlio di papà, e mi hanno tirato prima dell'acqua, poi delle uova, poi dei pomodori. Ho provato a discutere con loro, ma non erano intenzionati, non sapevano minimamente quale fosse la storia della mia vita, che non fossi figlio di papà, eccetera eccetera, e la polizia era ai quattro crocicchi della statale, ha visto, dopodiché un funzionario e una funzionaria si sono avvicinati, mi hanno pregato di desistere, cosa che ho fatto, non ho voluto commentare, non commento. Mi dispiace molto, mi dispiace per gli studenti, sono liberi evidentemente di fare quello che vogliono, di decidere chi entra e chi non entra. Mi dispiace per la polizia, non condivido assolutamente questo modo di fare. Mi dispiace dover parlare di me in questi termini e sicuramente ho molto da riflettere. Mi auguro che in qualche misura trovi il modo per farlo anche chi insegna all'università. Non c'è alcun meccanismo diretto di responsabilità e ci ho sorriso amaramente sopra. Mi dispiace perché molti penseranno esattamente che se è accaduto me lo merito, perché conosco i meccanismi di questo paese, dell'informazione, conosco i meccanismi per cui tanti anni fa oramai all'università c'era chi praticava con diversi metodi, quindi non voglio accomunare queste cose, e so come questo sia esattamente il punto, cioè fissare con un gesto di disprezzo un giudizio collettivo, e i giudizi collettivi si formano così, ed è questo il mio più grande motivo di amarezza, e fine, punto, non ne parliamo più. Allora, avviciniamoci a questo Eurovertice e speriamo che il tono debba essere quello del 9 di dicembre, ispirato a un maggiore ottimismo rispetto a quello che ha usato nel suo discorso a Tolone, che avevamo preannunciato, il Presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy, perché Nicolas Sarkozy è stato di un pessimismo molto molto molto forte, e quello che si è capito è che l'Esecopia aveva ragione ad anticipare elementi di grande amarezza nel presidente francese, perché quello che è evidente è la mancanza ancora di un accordo con il cancelliere Angela Merkel e con la Germania, e la grande preoccupazione che è al centro della politica francese di non apparire sottomessi a una perdita di sovranità. Questo è il punto di fondo su cui i governi di tutti i paesi dell'euroarea si devono misurare, perché alle opinioni pubbliche continuano a dire che nessun governo intende fare un passo indietro sulle procedure di bilancio, sulla sovranità, sulla democrazia, sulla sovranità dei partiti, no ai tecnici, agli eurocrati di Bruxelles e così via. Tranne poi il fatto che tutti chiedono alla Banca Centrale di mettere mano al torchio, e però delle due l'una: o si cede un pezzo di sovranità ulteriore, come sempre è avvenuto nel tragitto di costruzione dell'euro, e come non è avvenuto però abbastanza per consentirci poi di avere anche una banca centrale che faccia il mestiere che fa in America, oppure se ciascuno vuole rimanere titolare della propria facoltà di fare deficit, debito, e poi di non risponderne, perché c'è alla fine una banca che premia l'azzardo morale dei politici più scandalosamente mentitori, e allora questa roba non sta in piedi, e io a quel punto tifo Germania, perché mi sembra che la Germania richiami tutti a un elementare principio di rigorosa coerenza. Del resto in Francia, lo abbiamo detto, anche Hollande, il capo dell'opposizione Verdi, candidato socialista, ha pronunciato un discorso durissimo su questo argomento, dicendo: giammai la sovranità francese potrà essere portata a rispondere di fronte alla Corte di Giustizia della nostra eventuale decisione di aumentare il deficit un certo anno, se ci sembra giusto fare così, perché questo si deciderà sempre nei parlamenti nazionali. Se si deciderà sempre nei parlamenti nazionali, bisogna che ciascuno torni alla propria banca centrale, però. Questo è un punto di fondo su cui continuare a riflettere. Oggi su Deutsche Zeitung ci informa che il cancelliere Angela Merkel sarebbe pronto ad accettare, invece, sia pure temporaneamente, questo è ciò che scrive su Deutsche Zeitung, l'aumento anche temporaneo di acquisti di parti del debito pubblico maggiore, alle aste come sui mercati secondari del debito pubblico nazionale, da parte della Banca Centrale, come una misura transitoria, perché dice il pezzo di Deutsche Zeitung, in realtà la cancelliera e la cancelleria resta scettica sul fatto che la Banca Centrale debba impegnarsi in un programma di acquisto di vaste estensioni e illimitato, ma comunque accetterebbe una misura di questo tipo in cambio del fatto che l'accordo al vertice del 9 dicembre sia veramente stretto su nuove procedure di bilancio e anche con intervento appunto della Corte di Giustizia Europea, cioè di sanzioni affidate a un organo non discrezionale come l'Ecofin. Questo è esattamente il punto che invece Sarkozy ha respinto, insistendo invece sulla via intergovernamentale, la via intergovernamentale che però classicamente, quando si è trattato di essere applicata a francesi e tedeschi, non è scattata con le sanzioni che invece puntualmente sono sempre scattate quando riguardava l'Italia. Sul suo editoriale sul Financial Times, Philip Stephens dice che l'ottimismo non ha buone ragioni. Dice: prima ragione, i banchieri centrali e la BCE hanno spiegato a tutti che il sistema dell'intermediazione finanziaria resta afflitto da enormi problemi. Anche ieri Mario Draghi, nel suo discorso al Parlamento europeo, pochissimi parlamentari presenti a dire la verità, ha usato toni di grandissima preoccupazione. E poi dice, si sofferma anche sull'Italia, dice sull'Italia invece lui è ottimista perché dà un buon giudizio della sostituzione di Silvio Berlusconi con Mario Monti, Philip Stephens sul Financial Times, e dà un buon giudizio di chi lo ha sostituito. È un vero e proprio endorsement quello del Financial Times nei confronti del governo Monti. Mi fermerei qui per il momento sui giornali europei e andrei subito al punto con un'osservazione. Oggi, attenzione, farà molto discutere il rapporto annuale sull'Italia che viene consegnato dal Censis, che è un rapporto, c'è l'embargo fino alle 10 quindi non mi posso soffermare, ma che mi ha molto colpito per questo segno di grande dignità che chiede e che rappresenta nel paese, al di fuori della teatrale rappresentazione dello scontro centrodestra-centrosinistra nel nostro paese, e che rilancia su una rappresentanza diversa da quella del Parlamento. Secondo me farà molto molto molto discutere. E infine veniamo al punto del giorno. Il punto del giorno è quello appunto delle sofferenze bancarie. Come stanno le condizioni di questo paese dal punto di vista del clienti delle banche che non riescono a onorare le loro impegni con la banca, e stanno messe come possono stare in un paese in cui la condizione dell'economia reale torna a deteriorarsi dopo l'illusione di miglioramento che abbiamo avuto un anno e mezzo alle nostre spalle. Sappiamo che le previsioni sono di un ritorno al segno meno nell'economia italiana. E a questo punto il problema è quello di tentare di descrivere come si possa affrontare il problema di milioni di italiani, famiglie e imprese che non riescono a onorare significativamente, dignitosamente il loro impegno con le banche, dall'altra parte le banche che vedono deteriorare i loro margini, devono ricapitalizzarsi, sono alle prese con una crisi epocale, hanno un regolatore europeo che gli dice guardate che i titoli del debito pubblico se li continuate a tenere dovete aumentare il capitale di vigilanza e così via, e se a quel punto procedessero con il Caterpillar con i clienti, che cosa farebbero? Ucciderebbero il cliente e comprometterebbero se stesse l'economia nazionale. Allora, abbiamo chiesto oggi a Dino Crovellari, che è amministratore delegato di Unicredit Credit Management Bank, cioè la business unit che nell'ambito della seconda banca italiana, la più internazionalizzata, ha proprio il compito di affrontare questa questione e che lo affronta non solo per la propria banca, ma mette a disposizione le proprie strutture, le proprie risorse, la propria managerialità per farlo per qualunque intermediario finanziario che abbia problemi analoghi, sono tanti, è la generalità, per capire loro come si comportano, come hanno deciso di comportarsi di fronte alla crisi che torna a recessione dell'economia e di fronte a questa evenienza delle banche, per tentare di spiegarci come esse sia fondato o infondato ciò che ci descrivono dal basso, banche insensibili, coi cordoni chiusi, immediatamente pronte all'esecutività giudiziale, ai sequestri, ai pignoramenti, oppure se invece la prospettiva dal loro punto di vista sia diversa. Naturalmente poi apriremo i telefoni, sentiremo anche come la pensate voi con le vostre esperienze. Allora, buongiorno e grazie innanzitutto a Dino Crivellari che ha accettato di essere con noi in studio a Milano mentre io sono a Roma. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, possiamo iniziare da una fotografia di come è andatosi deteriorando di nuovo la questione delle sofferenze nel nostro paese, per dare un'idea dimensionale? Le dimensioni purtroppo non sono piccole. Dal settembre 2010 al settembre 2011 le sofferenze bancarie in Italia sono aumentate del 40%. La cifra è un po' impressionante, da 73 miliardi siamo passati a 103 miliardi e se si guarda l'andamento delle sofferenze entrate dal 2005 al 2011 la cosa che impressiona di più è che non solo crescono tanto le sofferenze ma se ne chiudono poche, il che vuol dire che si crea un grosso stock di sofferenze che, come tutti sappiamo, per riportarle poi a liquidità hanno bisogno, in un paese come l'Italia dove il sistema giudiziario è quello che è, di molti anni. Questo è un problema importante, in particolare per quanto riguarda le famiglie. Di questi 102 miliardi circa 10 miliardi più di 10 miliardi riguardano mutui alle famiglie, quindi indebitamenti che le famiglie hanno fatto per comprarsi casa, e questo è un tema sul quale non solo siamo sensibili umanamente ma dobbiamo essere sensibili come azienda. Allora, ordinariamente ricordiamo quali sono le procedure che una banca segue quando si va in sofferenza, cioè quanto tempo passa dopo che c'è un accertamento bilaterale sulle condizioni di un ripristino, di un pagamento accettabile anche per la banca, prima che poi si decida un altro step un po' più rigido e un po' più coattivo. In questi anni le banche, in particolare Unicredit, ma in generale tutte le banche, sono state molto attente ad evitare di essere particolarmente aggressive con i clienti in difficoltà. Noi abbiamo uno slogan, la nostra pubblicità in questo periodo dice la vita è fatta di alti e bassi, noi ci siamo in entrambi i casi. Ecco, non è proprio soltanto uno slogan, è veramente una linea di lavoro che poi tradurla in pratica naturalmente ha le sue complessità. Il problema principale è che quando un'azienda o una famiglia entra in difficoltà per i debiti bancari che ha contratto, quello che accade è che dopo un certo periodo di osservazione, dopo un certo periodo in cui si cerca di trovare delle soluzioni relativamente semplici, a un certo punto si decide che bisogna rientrare e da lì si aprono sostanzialmente due strade. Quella classica, che è sempre stata usata da qualunque creditore, che è di dare l'incarico a un avvocato di cercare di portare il più presto possibile il patrimonio del debitore ad un'asta per liquidizzarlo e quindi rientrare per quanto possibile del credito, è quella un po' diversa sotto questo profilo che abbiamo adottato noi da ormai 10 anni e che fino a questo momento ci ha dato soddisfazione. La differenza sostanziale è questa: per chiudere una sofferenza, cioè per recuperare un credito, ci sono sostanzialmente tre modalità. Vendere gli immobili, il patrimonio, rendere liquido attraverso una procedura giudiziaria il patrimonio del debitore, cedere il credito, ma questa è un'operazione abbastanza particolare, ovvero, come la chiamiamo noi, vendere la quietanza. Vendere la quietanza significa stabilire il più presto possibile, nella maniera più precisa possibile, quanto il debitore può pagare, perché le altre formule possono essere molto costose. In Italia una procedura giudiziale dura anni ed è molto costosa, perché i costi legali sono molto lunghi. Allora, se noi siamo abbastanza bravi e abbiamo la collaborazione del debitore per riuscire a capire fino a che punto lui è in grado di pagare, per noi è molto più conveniente vendere una quietanza, cioè fare un accordo sostanzialmente, piuttosto che agire in via giudiziale. Naturalmente questo non è sempre possibile, non è sempre facile. Bisogna dire che fino a qualche anno fa, fino a prima della crisi, noi avevamo dei risultati eccellenti da questo punto di vista, e cioè nel 95% dei casi annualmente le pratiche venivano chiuse con un accordo. La crisi e tutta una serie di altre problematiche che leggiamo sui giornali tutti i giorni hanno ridotto questo livello dal 95 al 75% nell'ultimo anno. Questo però ci ha indotto a immaginare anche altre soluzioni. Aspetti, per capire, quando dice che la percentuale, diciamo, di una soluzione in bonis, ritrattando, si è scesa dal 95 al 75%, vuol dire che si fa ricorso poi alle procedure attraverso la giustizia nel restante 25% dei casi? Il restante 25% dei casi riguarda posizioni che si sono chiuse a seguito dell'azione giudiziaria, cioè a seguito della vendita all'asta dei beni del debitore, mentre una volta era solo il 5%, quindi insomma purtroppo la crisi tocca anche questo. D'altra parte noi non possiamo non tutelare gli interessi del patrimonio della banca, ma più che altro dei risparmiatori che affidano il loro denaro alle banche, quindi comunque l'azione va fatta. Sicuramente è molto, anche dal punto di vista statistico, il risultato degli accordi è sicuramente migliore del risultato in termini di realizzazione del credito, del risultato che deriva dalle azioni giudiziarie. Sono dati noti, pubblici. Gli accordi di tipo stragiudiziale, cioè appunto le vendite delle quietanze dette in maniera molto mercantile, portano a casa il 68% del credito in 2,1 anni, questa è la media statistica. Tutte le altre formule giudiziarie invece portano a casa molto meno del 68% del tempo. E almeno nel doppio del tempo. Ma anche nel triplo, perché arriviamo a 7 anni. Che è una media, il che significa che ci sono cause, e noi abbiamo purtroppo delle cause che io ero quasi bambino quando sono iniziate. Questo è il sistema giudiziario, ma questo è un altro argomento. Però l'obiettivo fondamentale è quello di dire: poiché il nostro cliente in difficoltà resta il nostro cliente fino a che non siamo per forza costretti ad incrociare le armi dal punto di vista giudiziario, noi facciamo di tutto per cercare l'accordo. È chiaro che per cercare l'accordo dobbiamo avere la sua collaborazione. In che senso? Dobbiamo capire effettivamente qual è la sua situazione, cioè dobbiamo, quella che tecnicamente si dice, ripristinare la simmetria informativa per ritornare ad essere consapevoli dei limiti entro i quali è opportuno agire e portare a casa il risultato. E non diciamo è sempre che, facile. E diciamo che questo è una descrizione in termini generali. Non credo che siamo riusciti a scaldare i cuori di chi ci ascolta ed è magari ha il timore di non onorare una pendenza con una banca. Ma veniamo adesso a uno dei punti secondo me più interessanti invece da far descrivere a Dino Crivellari, cioè per quello che riguarda specificamente le famiglie. Cominciamo da loro con i mutui. Nel caso in cui ci sia una difficoltà conclamata da parte della famiglia, invece di ricadere nella secca alternativa di dover a un certo punto procedere al pignoramento e all'esproprio, come e perché voi vi siete posti la possibilità di una terza via, e in che cosa consiste? Il perché è uno stato di necessità. La situazione delle famiglie italiane di fronte alla crisi economica fa sì che coloro che avevano contratto dei mutui in anni migliori rispetto a quelli attuali e li avevano consapevolmente contratti con dei redditi tali da poter sostenere le rate, oggi si trovano purtroppo in migliaia e migliaia di casi nella condizione di non poter più far fronte alla rata. Semplicemente e banalmente perché, per esempio, uno dei due coniugi ha perso il lavoro, il che vuol dire avere la metà del reddito. Quindi quando il calcolo della rata era stato fatto su un reddito doppio rispetto a quello attuale, adesso non ci stiamo più e quindi bisogna affrontare l'argomento. Che cosa accadrebbe se non facessimo qualche cosa di diverso? Accadrebbe che tutte queste famiglie si troverebbero a dover essere esecutate, come si dice, cioè messe in condizione di trovarsi la loro, il loro immobile all'asta, il che comporterebbe un problema sociale sicuramente estremamente rilevante. Ma lo dico perché è inutile fare dell'ipocrisia, ma anche per le banche sarebbe un problema da un altro punto di vista, perché se si portassero all'asta migliaia e migliaia di immobili, il mercato immobiliare, che già è un mercato abbastanza in difficoltà in questo momento in Italia, avrebbe naturalmente un eccesso di offerta e quindi comporterebbe la perdita di valore di questi immobili. La perdita di valore degli immobili si trasformerebbe in una perdita aggiuntiva per la banca. Si trasformerebbe, l'aggiungo, in una perdita aggiuntiva per la banca, ma in una perdita aggiuntiva in una circostanza molto particolare come quella di un rischio di impoverimento di tutte le famiglie, del valore in portafoglio che per l'85% degli italiani rappresenta il mattone rispetto al prezzo unitario medio immobiliare. Quindi sarebbe una bella botta di depauperamento, per quanto io sia favorevole al mercato che fa i prezzi liberi, anche per le famiglie in quanto tale, non solo per la banca. Quindi insomma bisogna andarci un po' piano rispetto alla possibilità che i prezzi immobiliari scendano improvvisamente per effetto di una specie di maxi svendite nel canale giudiziario. Sì, perché se si pensa che un dato noto, ma negli anni passati le aste deserte erano nell'ordine del 60%, no? La prima asta deserta è del 60%. Adesso la prima asta deserta è nell'84% dei casi. Quando un'asta va deserta, il giudice dell'esecuzione deve ridurre il valore di base d'asta, il che significa che riduce il punto di partenza delle offerte e quindi riduce il valore dell'immobile. A fronte di questa situazione, noi abbiamo cercato di immaginare degli strumenti che, lo premetto, non risolvono il problema per tutti, perché naturalmente sono degli strumenti che hanno dei grandi limiti di operatività, però sono almeno uno sforzo concreto, ben definito, cercato, per individuare delle soluzioni che non siano soltanto quelle alla fine semplici ma non utili e, no, e sicuramente dannose della semplice attività di esecuzione immobiliare. Allora adesso la devo fermare perché andiamo in pubblicità. Nel frattempo, in tempo reale, nell'intervento che il cancelliere tedesco Angela Merkel sta facendo al Bundestag, anche lei come ieri Sarkozy sul vertice europeo, parole ispirate a un ben diverso ottimismo, seppure senza eccedere, ma ottimismo rispetto al pessimismo prevalente invece nelle parole del presidente francese. Il cancelliere ha finora detto che sono sicuramente necessari anni per superare questa crisi, ma il suo giudizio è che sono stati fatti importanti passi. E in che cosa consistono questi importanti fatti su cui il cancelliere sta tentando di infondere fiducia non solo al Parlamento tedesco ma alle opinioni pubbliche europee e ai mercati? La Merkel ha detto: l'Europa è oramai vicinissima a una vera unione fiscale, quindi il messaggio è: siamo convinti che le procedure blindate di bilancio, compresa la Corte di Giustizia Europea, è un prendere o lasciare. O ci dicono di sì gli altri membri dell'euroarea, oppure si accollano la responsabilità di far saltare l'euro. Eccoci tornati in studio. Mentre eravamo in pubblicità, il cancelliere tedesco ha aggiunto, però non vorrei darvi troppo ottimismo, e ha aggiunto no agli eurobonds, ovviamente non sono e non saranno la soluzione. Nel frattempo comunque un effetto c'è, lo spread italiano BTP Bund è sceso sotto i 436 punti. Allora, eravamo arrivati al momento nel quale Dino Crivellari, amministratore delegato di UniCredit Credit Management Bank, ci stava spiegando qual è questa terza via rispetto alla coazione immediata. A un certo punto, una volta che la banca dice la famiglia non riesce più a pagare il mutuo, questa terza via in che consiste concretamente? Parte da questo punto di vista. Le banche hanno sempre, da secoli probabilmente, preso in carico immobili dei debitori dove non riuscivano a farsi pagare il debito. Questa però non è la soluzione, per il banalissimo motivo che un immobile poi va gestito, mantenuto, rivenduto, messo a norma, eccetera. Primo problema molto banale, molto diciamo egoistico. Secondo problema è che noi dobbiamo sempre immaginare che siamo in una fase critica, ma che dobbiamo necessariamente ritenere che sia temporanea, e quindi è assolutamente indispensabile pensare a strumenti che possano trovare il loro completamento e la loro realizzazione in termini di utilità finale quando questa benedetta crisi sarà superata. Se non ragioniamo con un minimo di ottimismo sotto questo profilo, veramente non abbiamo nessuno strumento da mettere in campo. E allora il punto di partenza è stato questo: perché non cerchiamo di fare in modo che il debitore, il mutuatario, colui che ha comprato casa, resti nella casa? Questo è l'elemento fondamentale, cosa che risolve un problema sociale importantissimo, ma risolve anche alcuni problemi di carattere nostro dal punto di vista del valore di questi crediti. E quindi si sono aperte una serie di ipotesi. La prima, banalissima, e queste si declinano naturalmente in base alle situazioni specifiche, quindi adesso non entriamo troppo nel dettaglio, però le enumero. La prima: il debitore non riesce a pagare più la rata di mutuo, ha una capacità di reddito attuale talmente bassa che non può pagare la rata di mutuo neanche in una parte relativamente piccola, può però pagarla sotto un profilo diverso, cioè come se fosse un affitto, quindi per una cifra relativamente piccola rispetto alla rata di mutuo, che come sapete contiene la quota di interesse e la quota di capitale, mentre invece può pagare un affitto. Allora a questo punto la banca, attraverso degli strumenti immobiliari, delle società immobiliari che nostre o insieme ad altri, acquista l'immobile, lo lascia al debitore naturalmente, estingue il mutuo e consente al debitore di restare nell'abitazione pagando un affitto sostenibile in funzione del suo reddito e avendo l'impegno da qui ad una certa data, a un certo tempo, di mettere il mutuatario in condizione di ricomprare l'immobile quando la sua situazione economica dovesse migliorare. Questo è il caso più estremo. Ci sono poi tutta una serie di casi intermedi in cui il debitore non può più pagare una rata da 1000 euro ma ne può pagare una da 500, in quel caso la banca acquista una quota di nuda proprietà, estingue una parte del mutuo, fa ridurre la rata di mutuo a carico del debitore e sempre prende l'impegno di rivendere quella quota di nuda proprietà al mutuatario quando la situazione per lui sarà migliorata. E comunque siamo in presenza di una cosa che dice: io non ti levo la casa, non ti butto per strada. Sentiamo, esatto, come la pensa Francesco Avallone, che è il presidente della Federconsumatori del Lazio, rispetto a questa linea che ci ha spiegato Crivellari. Innanzitutto, se nella vostra esperienza quanto è diffuso, quanto si sta diffondendo, quanto è auspicabile che si diffondino di più pratiche così, e qual è invece la realtà che vi risulta, Avallone? Sì, guardi, ne abbiamo provate tutte in una situazione di crisi così profonda. Abbiamo fatto accordi con l'ABI per una moratoria, per spostare di 12 mesi e quindi avere 12 mesi di respiro. Questa soluzione ci è sembrata molto, molto attuale, data la crisi che c'è, ma soprattutto socialmente valida, perciò l'abbiamo considerata positivamente e ci siamo messi a disposizione per affiancare i mutuatari nell'affrontare tutta una serie di passi che si dovranno fare con la banca. Quindi noi siamo abbastanza positivamente pronti ad aiutare questo percorso. Abbiamo moltissime segnalazioni sul territorio nazionale e non è stata ancora molto propagandata questa ipotesi, e quindi crediamo che si debba fare molto, perché in altre situazioni, adesso è la Unicredit Management Bank che ha dato questa ipotesi di soluzione, in altre banche queste soluzioni non sono quasi per niente conosciute. E quindi bisognerebbe tentare forse a Vallone di estenderla con un'azione di pressione congiunta. Noi che facciamo informazione, anche a me ha colpito molto, per questo faccio la trasmissione, voi che rappresentate i consumatori, il sindacato, insomma chiunque, per tentare di estendere soluzioni di questo tipo il più possibile all'interno del sistema bancario, perché a me pare che l'ipotesi di non buttare la gente per strada e di contemporaneamente preservare l'interesse della banca, non uccidere il cliente, non rimetterci il patrimonio, ma dall'altra parte non creare una botta per migliaia e migliaia, decine, centinaia di migliaia di famiglie italiane improvvisamente pure spossessate per via della crisi della casa in cui magari per un orizzonte 20-30 anni avevano messo parte elevata al reddito disponibile di qua a venire, a me sembra una cosa positiva, o no? Sì, assolutamente. assolutamente, anzi noi l'abbiamo sollecitata anche all'ABI, all'associazione bancaria, diciamo ai nostri associati che sono in questa situazione di presentarsi presso le loro banche con l'ipotesi, anzi chiediamo pure al dottor Crivellari di mettersi a disposizione, anche perché è lui l'inventore di questa soluzione, di aiutare anche le altre banche, altri clienti a sostenere questa, perché commercialmente non è una, diciamo così, una soluzione che può essere presa come una novità e quindi gelosamente tenuta da una banca, perché i mutuatari sono in altre banche, quindi questa soluzione per i clienti Unicredit certamente è interessante, ma purtroppo per altri mutuatari di altre banche questa soluzione non può essere conosciuta e quindi dobbiamo lavorare. Lei ha ragione, sia la stampa che noi attraverso l'ABI, attraverso anche, perché ci sono anche altre associazioni che hanno aderito insieme a Fede Consumatori ad avere questa attenzione particolare, anzi il Unicredit Management ha messo anche un sito, cioè ha messo a disposizione e addirittura diciamo, permette a noi di affiancare il mutuatario nei vari passaggi. Questa è una garanzia assoluta di trasparenza. Grazie anche a Francesco Avallone. Sentiamo rapidamente un paio di ascoltatori almeno prima di tornare con Crivellari. Sentiamo per esempio Giuliano che ci chiama da Padova. Prego Giuliano. Buongiorno. Buongiorno. Avete fatto degli esempi e poi il responsabile di Unicredit dice loro cosa propongono per uscire da queste situazioni. Bisognerebbe però anche che facessero un pochino di autocritica, perché le spiego. In Italia siamo pieni di microaziende. Bene, se io ho un insoluto, visto che ho una microazienda, da parte di qualcuno che non mi paga, attualmente quella che si chiamava commissione di massimo scoperto, proprio varie banche l'hanno praticamente più che raddoppiata. Adesso vengono messe commissioni del 2 per 1000 al giorno, vuol dire lo 0,2% al giorno, vuol dire il 72% all'anno. Se io quindi ho un insoluto e ci metto del tempo a recuperarlo, questo insoluto mi costa il 72% all'anno. È logico che con queste cifre poi inizio ad avere delle insolvenze oppure la rata del mutuo di casa da pagare in sospeso. Ma magari sarebbe bello che la banca iniziasse da lì a dare una mano alla gente, non poi dopo che ti fa pagare il 72% ti viene a dire che ti viene incontro per farti salvare la casa. Questo ci hanno pensato o è difficile come concetto? No, grazie a Giuliano, perché la questione del massimo scoperto è inevitabilmente correlata alle tensioni di liquidità che, come è noto, visto che tutti i giorni ve ne parliamo, si sono molto accentuate in questi ultimi mesi, che hanno giustificato anche la preoccupazione molto forte espressa da Mario Draghi al Parlamento Europeo, espressa da Vegas nella sua intervista ieri, condivisa dal presidente dell'ABI Mussari. È ovvio che è una innalzamento medio del massimo scoperto, bisogna distinguere istituto dall'istituto, significativamente più elevato però anche del maggior costo incorporato della provvista di liquidità a breve delle banche per via dell'incorporazione del premio al rischio sovrano, quello degli spread. E quindi sentiamo poi come la pensa il nostro ospite Crivellari. Sentiamo l'esperienza di Mario che ci chiama da Vercelli. Prego Mario. Dottor Giannino, buongiorno. Io sono del settore immobiliare, faccio l'avvocato, mi interesso di esecuzione immobiliare. Vorrei essere molto pratico. Molti beni che dobbiamo vendere tramite esecuzione sono invendibili. Perché? Perché quando è stata fatta la perizia di stima da parte della banca mutuataria, il prezzo dell'immobile, grazie ad una serie di fattori che non stiamo ad elencare, ma di cui si sta interessando la Procura della Repubblica, è stato gonfiato. Cioè un bene che valeva 100 è stato valutato 180 ed è stato erogato il mutuo. Peccato che il bene è invendibile, ma è invendibile per la sua qualità, perché non vale quello che pensava valesse l'istituto, perché c'è una grande crisi territoriale nella zona in cui operiamo. Quindi le banche, soprattutto Unicredit, si è distinta in queste cose. Non so perché le ho viste le procedure di Unicredit. Ci sono beni, alloggi in complessi industriali fatiscenti valutati 200.000 euro quando la perizia di stima fatta poi dal tribunale per venderlo dice 30.000. Quindi in un paese in cui in generale tutti lamentano che i valori medi, gli estimi catastali eccetera eccetera sono bassi in una giornata, lei dice quello del bene su cui c'è incardinato, cioè di solito tende a essere più sopravvalutato che sottovalutato. Era sopravvalutato, ci sono in corso procedimenti penali a carico dei soggetti che facevano queste stime, c'era tutta una no, ma un momento, mi faccia capire meglio, nella sua esperienza, lei si riferisce a una vicenda in particolare per cui ci sono incardinate poi delle procedure, degli accertamenti e anche delle vicende penali, oppure la sua è un'esperienza media rispetto a quello che vede nel settore dalle sue parti? Quello che vedo nel settore. Ah, quello che vede. La maggior parte purtroppo è roba invendibile, non svilendo nel prezzo in una maniera... Certo, molto molto considerevole. Grazie anche a Mario. Adesso noi abbiamo il minuto sulla circolazione stradale, poi sentiamo rapidamente ancora Alessandro da Varese che ci sta aspettando da un bel po' e poi torniamo a Caroline. Nel frattempo la Merkel, do solo dei flash, non vogliamo spaccare l'Europa, c'è neanche per l'Italia. L'Italia ha un'enorme sfida per sé e anche per tutta l'Unione Europea. Quindi il governo Monti, chi lo sostiene, chi dovrà dire sì o no alle sue misure, ha anche di fronte a sé il rischio, dicendo no, che salti tutto. This is the end, beautiful friend. Eh sì, fino al 9, fino a che non sarà chiaro se diciamo sarà anche ben eseguibile l'accordo del 9 con buona reazione da parte dei mercati, i dors ce li teniamo, non dipendono dai pomodori che mi tirano in faccia dandomi il figlio di papà è fascista, no, quello non dipende da quello, è il rischio che la politica europea non capisca, deve capire, il sistema bancario altrimenti immediatamente entrerebbe in tensioni ancora maggiori. Attraverso il canale del credito si arriva immediatamente all'economia reale, gelo artico della crescita, siamo già in recessione e siamo di fronte al problema di cui stiamo parlando oggi, continua a crevellare l'amministratore delegato di Unicredit, Credit Management Bank, per moltissime famiglie italiane, per moltissime piccole imprese italiane, a quel punto non riuscire a onorare gli impegni di rientro con le banche per i soldi presi a prestito diventerebbe una... dramma ancora maggiore di quello che abbiamo alle spalle. Abbiamo affrontato con strumenti cooperativi, ma ora che le banche devono rientrare in qualche modo, il problema è come non buttare la gente per strada, innanzitutto se ci stiamo parlando di un mutuo che non è più onorato. Abbiamo visto che una terza via c'è ed è quella di far permanere la gente nell'unità immobiliare, ricontrattando, vedendo, ma comunque senza buttarla per strada. Alessandro da Varese, qual è la sua esperienza invece? Buongiorno innanzitutto, la mia esperienza invece è molto molto negativa, per quanto mi riguarda le banche sono degli avvoltoi, semplicemente degli avvoltoi. Se tu hai un immobile la banca non tratta, la banca te lo porta via, appunto. Questa è la mia esperienza, mio padre, oltretutto il debito non era neanche mio, ma era di mio padre ha fatto l'imprenditore per tanti anni, aveva aperto più società, ogni tanto firmava anche delle fiduzioni. Aveva chiuso una società, dopo 17 anni che questa società, lui non aveva chiuso la società, era uscito dalla società perché la società era rimasta attiva, dopo 17 anni la società fallisce, la banca viene a chiedere a mio padre 500.000 euro, così, signori ci dovete dare 500.000 euro. Mio padre anche per questo muore, perché gli viene un ictus. Fortunatamente io e i miei fratelli non siamo degli sprovveduti, per prudenza rinunciamo all'eredità. Dopo un anno che abbiamo rinunciato all'eredità, senza una lettera di avviso, senza una chiamata da parte della banca, ci è arrivato il decreto ingiuntivo del tribunale, dovete pagare 500.000 euro. Noi fortunatamente abbiamo rinunciato e la banca l'ha preso in quel posto. Però questa è la mia esperienza, è la trattativa che fa la banca nei confronti dei creditori. Ma rapidissimamente, quei 500.000 euro come si erano formati e vostro padre ne era del tutto ignaro? Mio padre aveva firmato una fiduzione per 500.000 euro per quella società. Sì. Aveva fatto, quando era uscito da quella società, aveva mandato le lettere di chiusura delle fiduzioni. Io ho queste lettere, autografe di mio padre, però non ho la pezza giustificativa della raccomandata. Perché io non ho quella pezza lì, devo pagare 500.000 euro. Dovevo, fortunatamente poi è finito tutto bene, tutto bene, ho dovuto rinunciare a tutto quello che era di mio padre, per cui non è che... Ho capito, però nella vostra esperienza certo la banca ha tentato di fare il colpo, per così dire, insomma. Esatto, ma avrebbe mandato a me, alla mia famiglia, con due bambini piccoli in mezzo a una strada, senza neanche... chiamarmi una volta al telefono. Va bene, ma io lo so che aprendo i telefoni queste sono le cose che vengono dal basso, e del resto si vede con le statistiche nei sondaggi comparati di fiducia nazionale, quella rivolta ormai al sistema bancario e agli intermediari finanziari è bassissima, cioè veramente a livelli. Allora, Crivellari, facciamo un po' il punto, qualche considerazione finale che tragga ispirazione da quello. Lei non è sorpreso, è venuto dalle telefonate, perché ovviamente sa benissimo quale sia l'opinione generale, però bisogna tentare di romperla con delle buone pratiche come quella che lei ha illustrato. Appunto, intanto devo dire che noi abbiamo lavorato moltissimo con le associazioni dei consumatori su questi prodotti, proprio perché la nostra impostazione è quella di dire: se facciamo delle cose nuove debbono essere utili e condivise, e quindi è giusto che quattro occhi piuttosto otto li guardino prima di avere un punto di vista unico che potrebbe essere insufficiente. Su alcune delle cose che sono state fatte, ma per esempio al signor Giuliano dico sì, le ricevute bancarie, ma noi per esempio siamo l'unico gruppo in Italia che assiste il cliente proprio tramite Unicredit Credit Management Bank, assiste il cliente che presenta delle ricevute in banca e poi gli tornano insolute, e noi gli diamo l'assistenza nel cercare di recuperare il credito di quel cliente nei confronti del suo cliente. Quindi è proprio un servizio aggiuntivo che noi diamo e che devo dire è anche abbastanza diffuso, e tanti clienti riusciamo a sostenerli anche in una fase che, dove le altre banche o molte banche si disinteressano, perché se la ricevuta torna insoluta, viene addebitata e il problema è finito. Noi invece ci facciamo carico, naturalmente da un punto di vista professionale, quindi con dei costi a carico del nostro cliente, ma andiamo a cercare la soluzione del suo specifico problema sulla ricevuta. Allora, io devo, ohimè, perché il tempo è tiranno, ringraziare Dino Crivellari per averci spiegato che una terza via è possibile. Continueremo a monitorarla, a dare voce agli ascoltatori e ai clienti, ma anche a tentativi come questi Unicredit Credit Management. 9 in punto.